Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Well, life is great. It really is. We've gotten settled into our new house in Dallas. We just spent the first night there last Friday night. We're all unpacked and... E qui parliamo di qualcosa che non è proprio anni 10, anzi è anni 00, è un a volte ritornano, è un memoir, un ricordo, una rivisitazione, insomma è la storia di due libri, uno già uscito e uno che uscirà tra poco, che ci raccontano l'America della era George W. Bush per voce di George W. Bush e della signora che avete appena ascoltato, che è sua moglie Laura, ed è quindi una rivisitazione, un passo indietro, una occhiata necessaria all'America di solo pochi mesi fa, no? di un anno e mezzo fa, che però sembra già così lontana, e forse vale la pena di ragionare su questa differenza. Del resto ci sono questi famosi cartelloni, no, in giro per l'America, che non si capisce bene chi li abbia messi, perché il titolare è tutt'altro che interessato a riprendere un ruolo attivo nella politica americana, ma ci sono questi grandi cartelloni con la faccia di George W. Bush, un sorriso un po' ironico e la battuta: avete già nostalgia di me? No one should suspect me to disparage, attack, try to bring down my successor. I didn't like it when people criticized me when I was president. Allora, le notizie sono due. Il signore che in sottofondo sta dicendo che ha tutte le intenzioni di aderire a quello che è un patto non scritto, un patto cavalleresco non scritto, ma sempre rispettato, di non criticarsi tra presidenti, ovvero un presidente che se ne va a casa non si mette lì dal suo portico, no, della villa, a parlare male del suo successore. E George W. Bush sta dicendo esattamente questo e sta facendo anche esattamente questo, va detto al suo onore. E poi sta scrivendo un libro, anzi ormai probabilmente lo avrà concluso, perché è annunciato in uscita per la fine dell'estate americana. Si chiama Decision Points, punti di decisione. Nella copertina c'è l'immagine di George W. Bush da solo che passeggia nel colonnato del Giardino delle Rose della Casa Bianca, ed è una biografia presidenziale che, almeno così si dice nelle note che l'anticipano, non vuole tanto ripercorrere, no, puntualmente gesto dopo gesto, atto dopo atto, i passaggi importanti di quella doppio mandato presidenziale, ma vuole invece concentrarsi sulle decisioni chiave che George Bush ha dovuto prendere nel corso della sua presidenza, naturalmente soprattutto quelle legate al post 11 settembre e all'attacco in Medio Oriente, anche descrivendo in un certo senso, no, la simbologia della copertina è proprio questa, la solitudine, no, dell'uomo al comando allorché si deve fare carico di decisioni di questa portata. Poi c'è anche una parte biografica che viene annunciata come rivelatrice, molto interessante, riguarda fatti personali, fatti privati della vita di George W. Bush, in particolare la sua battaglia vinta contro l'alcolismo e le sue relazioni intense, importanti e decisive, le sue relazioni familiari. Did you get a chance to watch the president's speech to Congress? I didn't watch the State of the Union. I actually forgot totally about it. And the next day I thought. E nel dirlo si torna quindi a parlare di Laura Bush, dell'altro libro in questione a cui abbiamo deciso di dedicare l'apertura oggi di Anni 10. Si chiama Spoken from the Heart, detto dal cuore, un titolo piuttosto banale per un libro che però riesce a non essere banale come tale è stato presentato anche dai giornali, che a lungo sono stati tutt'altro che generosi in confronti della coppia Bush. Ovvero si dice generalmente che ci sono due libri in un libro solo in questo Spoken from the Heart. C'è una parte appunto banale, che è quella in cui la First Lady, essendo stata First Lady, deve rendere conto del proprio ruolo di First Lady, soprattutto dal punto di vista pubblico, e quindi raccontare tutte le cose importanti che ha fatto. Ma nel libro si percepisce che questo elenco di incontri, di personalità, di avvenimenti a cui ha partecipato non fa parte del reale universo di Laura Bush, che dove emerge invece è molto interessante, molto particolare. È una ragazza del Texas, di buona famiglia del Texas, del West Texas, la parte più desertica, no? più ampia, più sterminata di quello stato che in se stesso contiene grandezza, no? e dimensioni abnormi. È la storia di una gioventù improntata alla solitudine, ma anche condizionata da un terribile incidente automobilistico di cui Laura Bush è involontariamente la causa, che provoca la morte di un suo caro amico e segna la sua vita a venire. È l'ossessione che attraversa questo libro di Laura Bush, quell'incidente capitato più di mezzo secolo fa, in quegli anni 50, che lei racconta e da cui sembra di percepire proprio l'America di American Graffiti, l'America dell'ultimo spettacolo, questo Texas dove la solitudine è un dato di fatto. Fare 6 ore di macchina per andare in città per delle compere, per una commissione, per una visita al dottore è la norma. È proprio l'isolamento, è il sentimento che meglio Laura Bush descrive in questo libro, che si porta poi, e questa è la parte così più personale, più intima dell'esperienza, si porta dietro anche alla Casa Bianca, dove ritrova una forma diversa di isolamento. Descrive questi lunghi malinconici pomeriggi, tardi pomeriggi alla Casa Bianca, tanto più dopo l'attacco l'11 settembre, allorché la Casa Bianca venne letteralmente isolata dal resto del mondo, no? Non poteva più neanche ricevere posta perché c'era paura della antrace, e si ritrova, la First Lady si ritrova a essere quella ragazza del Texas che aveva vissuto con tranquillità, compostezza, classe la sua adolescenza, ma che poi una tragedia aveva scosso così profondamente da segnarle per sempre il carattere. Dunque tornano i Bush, tornano in modo privato, si raccontano, e il mondo, così un po' alla volta, impara davvero a valutarli. Here's the deal. The comfort I take is that you're gonna rot in hell. Oh, stop. With all due respect, this goes to show the totalitarian... Parlando di libri, per delle buone letture in questi ormai pieni anni 10 che abbiamo ormai decisamente imboccato, restiamo però esattamente dalle stesse parti, ovvero Casa Bianca, ovvero Presidenza Bush, ovvero libri come quello scritto dal signore che qua sotto sta litigando brutalmente con una visitatrice alla sua presentazione, perché pare che la tournée di lancio di presentazioni del suo libro, che si chiama Courage and Consequence, Coraggio e Conseguenza, per Karl Rove, ex stratega, ex mente pensante alle spalle di George W. Bush, sia in realtà una galleria di incidenti. Lo aspettano dappertutto, nelle librerie, nei centri commerciali, nelle università, e vogliono, come dire, presentargli il conto, no? Fargli un po' pagare quelle che evidentemente da alcuni sono ritenute delle cattive decisioni, se non delle malefatte, compiute alla Casa Bianca. In realtà questo libro di Karl Rove sta segnando, sta interessando parecchio la critica americana, non solo quella letteraria, ma naturalmente anche quella politica, perché letto con attenzione nelle sue corpose 600 pagine, viene ritenuta una introduzione necessaria a quella ormai imminente stagione di voto politico, quello del medio termine, poi immediatamente l'inizio del grande scivolo, no? Verso le presidenziali 2012, per un'America che forse vuole rinnovarsi, forse no, forse vuole chiudere i conti con Barack Obama, forse vuole continuare la sua liaison, la sua storia d'amore con il presidente in carica in questo momento. Sono due libri che vengono spesso accoppiati in questo senso. Uno è quello di Rove, di cui vi ho detto, di cui vi avevamo già parlato in passato, un libro in cui Rove si pone molti scopi, vuole e mettere in chiaro che cosa ha fatto e perché lo ha fatto alla Casa Bianca, vuole difendere decisamente l'operato di George W. Bush, vuole smontare quel mito, secondo lui, di manipolatore che lo segue, continua a seguirla anche adesso che fa semplicemente il commentatore televisivo, e soprattutto vuole cantarle chiare ai suoi avversari democratici, che è poi lo scopo che nel proprio libro si propone anche Mitt Romney, probabilmente in questo momento il candidato più autorevole, più accreditato tra i repubblicani per il 2012, al di là di coloro che credono in Sarah Palin, ma quella è un'altra America conservatrice. Mitt Romney ha scritto un libro, si chiama The Case for American Greatness, ovvero il caso, la questione della grandezza americana, ed è un libro in questo caso direttamente indirizzato a smontare la condotta e la tesi del presidente Obama, ovvero la tesi che l'America non sia più quella di una volta, che l'America sia sull'orlo del precipizio, che l'America vada salvata, corroborata, e che comunque una certa America che domina il mondo sia di là da venire. Mitt Romney ha scritto un libro per dire che le cose non stanno affatto così, e naturalmente mai libro può essere considerato più programma elettorale di quello in questione. What's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, it's a collection of villages. Questo è un pezzo di televisione che, devo dire, non ci stancheremo mai di vedere e rivedere, perché c'è un po' dentro il segreto della televisione, ovvero, no, teniamolo sotto, perché adesso quando comincia a cantare Susan, come dire, arriva l'illuminazione, no? È l'apparizione di Susan Boyle in un talent show. Susan Boyle era una signora un po' goffa, un po' sovrappeso, un po' fuori età, che si era messa in testa l'idea di cantare, e da lì è nata una stella, la conosciamo tutti, è uno dei video più cliccati su YouTube, ed è all'origine poi di questa grande carriera che ora viene segnata anche di libri. Due ne erano già uscite, ma ora Susan Boyle sta scrivendo la sua vera biografia, che si intitola La donna che io ero nata per essere. Ma ascoltiamo un attimo. I dreamed a dream in time gone by. Secondo me ve le ricordate le facce, no, dei giurati che all'esplodere della canzone dei Miserabili cantata da Susan Boyle smettono di avere quella espressione ironica e diventano improvvisamente seri e sorpresi, ma anche un po' preparato, ma insomma di fatto la scena ci fu, è sorprendente e, come vi dicevo, è divertente rivederlo. Naturalmente Susan Boyle scrive questo libro per dire com'è andata veramente secondo lei, e per dire è possibile per tutti, quindi una biografia che è anche un po' un how-to, no? un libro da cui imparare, che alcuni sogni si possono sempre inseguire. This is the picture Time magazine calls the best British movie since Room at the Top. The New York Times calls it brilliant, so clarified and concentrated that it excites, delights and hurts. E a proposito di spirito British, che più British non si può, come Susan Boyle, sentite la voce di questo annunciatore di trailer cinematografico, un trailer molto molto molto vecchio, versione cinematografica di un libro bellissimo, e il film era altrettanto bello, c'era un Albert Finney irresistibile, si chiamava Sabato sera, domenica mattina, è stato il più grande successo di un grande autore, di un grande scrittore, poeta, narratore di viaggi, saggista britannico, morto in questi giorni, poco ricordato, e quindi ci facciamo un dovere invece di citarlo, anche perché tanta, tanta, no, letteratura anche giovanile passa attraverso i libri di Alan Sillitoe. Questo era il suo nome. Scrisse, era uno dei giovani arrabbiati, dei giovani scrittori inglesi arrabbiati, scrisse due tre testi sacri della rabbia giovanile, ma anche della rabbia di base, operaia, no? Quella che non voleva, di gente che non voleva diventare ricca, era semplicemente arrabbiata contro i ricchi, come raccontava appunto la storia del Sabato sera e della domenica mattina, di questo Arthur Seaton, che era un operaio che la sera girava per i letti delle sue amanti o per i bar a ubriacarsi, la mattina si rendeva conto che il mondo era cattivo, duro, e pretendeva delle cose che lui non era certo di potergli dare. Poi fece la solitudine del maratoneta, no? Un'altra storia straordinaria, il giovane chiuso in riformatorio che diventa un atleta straordinario, viene preso a ben volere dal direttore del riformatorio perché corre come nessun altro, corre la maratona come nessun altro, va a correre la maratona, ma a un metro dal traguardo si ferma per protestare contro quella società che lo ha rifiutato. Alan Sillitoe se n'è andato, i suoi libri restano, e la loro lettura anche a 50 anni, quando sono stati vergati, è ancora, come dire, una intensa esperienza, no? nella alienazione, così nel disagio, soprattutto in un disagio giovanile che già 50 anni fa veniva così ben descritto. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Abbiamo parlato parecchio di biografie, autobiografie in questo inizio di anni 10 di oggi, e ne citiamo ancora una che è molto divertente, soprattutto per gli amanti di Hollywood e dello show business americano. Si chiama When I Stop Talking, You Know I'm Dead. Quando sto zitto significa che sono morto, diciamo così. È la traduzione, sono le memorie, i ricordi di Jerry Weintraub, probabilmente l'impresario della Hollywood classica, parliamo degli anni 50, 60, 70, più popolare, più di successo, e soprattutto uno che si trovava a gestire gente tipo Elvis o tipo Frank Sinatra, insomma, non esattamente uno scherzo. È naturalmente un libro fatto di aneddoti, di storie molto divertenti da leggere, da conoscere, e in quanto tale va preso, va consumato anche a piccole dosi. C'è una storia straordinaria in cui Weintraub racconta il giorno in cui Sinatra lo convince ad andarsi a fare un check-up al cuore a Las Vegas, e lui prende l'aereo, atterra a Las Vegas, si prepara la mattina dopo per il check-up. Quando la sera arriva Sinatra nel suo albergo, si porta una bottiglia di vodka, una di whisky e un po' di amici, e gli dice: dai, facciamoci un goccio, tanto cosa vuoi che cambi nel tuo check-up se ci facciamo un goccio? E si ubriacano persi, per cui il check-up viene rimandato. Il giorno dopo avviene esattamente la stessa cosa, lui si prepara, poi arriva Sinatra e gli altri disgraziati e fa la stessa cosa. Il giorno dopo ancora, così per una settimana, poi lui rimonta in aereo, riparte, se ne torna a Los Angeles convinto di aver perso il suo tempo. Sinatra lo accompagna all'aeroporto e dice: guarda, secondo me il check-up era inutile che lo facevi, se sei sopravvissuto a questa settimana è segno che stai benissimo. Suoni. Riconosciuti, no? Sono i Gorillaz, e sono stati, lo dicono concordemente tutti i giornali, i trionfatori di questa edizione di Coachella 2010, Coachella 2010 per dirla all'italiana, il festivalone californiano. Si svolge in un posto che si chiama Indio, che è già tutta tutto un programma, c'erano un sacco di palchi, un sacco di artisti. Il Coachella ha segnato l'apertura della stagione dei festival estivi, quando chi può, chi se la sente, chi ce la fa anche fisicamente, piglia parte e si va, magari si traversa mezzo mondo, mezzo Europa, per partecipare a uno di questi festival. Qui, ripeto, ha trionfato Damon Albarn con i suoi Gorillaz, poi c'era Tom York, c'era Jay-Z, addirittura accompagnato personalmente da Beyoncé, insomma, quindi era un festival anche con un versante mondano. Se ne annuncia uno altrettanto intenso, se per caso avete un agosto americano, segnatevi le date, perché dal 6 all'8 va in scena Lollapalooza, che è ormai il decano dei grandi festival americani. Quest'anno si svolge al Grand Park di Chicago, lo stesso dove Barack Obama, no, pronunciò il famoso discorso di vittoria delle elezioni nel novembre del 2008. C'è anche qui un programma di artisti letteralmente sontuoso. Si vedranno, si rivedranno insieme, perché anche loro, come tutti ormai abbiamo capito, che i grandi rocker, dopo che sciolgono con una certa alterigia le loro band, poi non sanno che fare, vagano un po' e poi la riformano. E è anche il caso dei Soundgarden, che si sono rimessi insieme e sono quindi l'attrazione. Il ritorno dei Soundgarden è una delle grandi attrazioni di questo Lollapalooza. Poi ci sono Green Day, Arcade Fire, Strokes, questi questi Phoenix, che sono questi ragazzi parigini che stanno conquistando veramente l'America, magari prossimamente ne parleremo, e poi niente meno in questi tre giorni di Chicago la possibilità di vedere Lady Gaga, che continua a essere il personaggio dell'anno in America, Lady Gaga dal vivo, col coraggio di sfidare anche una audience rock come quella di Lollapalooza, sarà tra le star di questo festival. Molti altri seguiranno, siccome i festival a noi ci piacciono, prossimamente ve ne parleremo. Fate sentire due brani di questo nuovo album di un artista nei confronti del quale è legittimo chiedersi: gli anni 10 saranno finalmente quelli buoni per consacrarlo come una star assoluta del pop d'inizio XXI secolo? Si chiama Rufus Wainwright, lui figlio d'arte, semmai ce ne può essere uno, suo padre è stato uno stimato cantautore, sua mamma era Kate McGarrick, delle McGarrigle Sisters, se ci sono degli appassionati di folk americano sanno di chi sto parlando. Sua sorella Martha Wainwright è una altrettanto valorosa cantautrice, ha fatto un nuovo album, ancora una volta un album strano, particolare, con un progetto monocentrico, lui e il suo pianoforte, la sua voce e quel pianismo così eccessivo, strabordante, che avete già sentito in questo brano. Il disco si chiama All Days Are Nights, tutti i giorni sono notti, e il sottotitolo è Songs for Lulu, una dedica personalizzata. Lui è un uomo di grandi passioni, tra l'altro è anche una emblema della cultura omosessuale, ha fatto un outing quando era ancora un ragazzo, è ormai riconosciuto come un cantore negli Stati Uniti della condizione omosessuale, ha dedicato un meraviglioso disco a Judy Garland, rifacendo interamente un concerto storico di Judy Garland. Continua a fare progetti, dopo aver pubblicato 3-4 dischi eccellenti, adesso fa questi progetti tematici. Probabilmente bisognerà attendere il nuovo grande disco di Rufus Wainwright, con la sua grande capacità tra l'altro di orchestrare, per consacrarlo, ma noi siamo piuttosto certi che questo avverrà assai presto. Si chiama Wake Up the Nation, svegliamo la nazione, il nuovo album di Paul Weller. Per lui non so se vale la domanda fatta nel caso di Rufus Wainwright: cosa saranno gli anni 10 per lui? Lui la sua consacrazione ce l'ha avuta già da una trentina d'anni. La domanda la potremmo un po' modificare e chiederci: anche negli anni 10 Paul Weller riuscirà a restare uno dei più rispettati, in un certo senso quasi temuti, no? Lui è il mod father, è il padrino del suono mod, artisti, musicisti della scena inglese, adesso che è, 52 primavere, un signore di una certa età, con un grandissimo passato alle spalle. I Jam, quando ce n'aveva 19-20 di anni, poi gli Style Council e poi una lunga carriera solistica che ha inanellato già una decina di nuovi album. Io sono pronto a scommettere sul sì a questa risposta. Lui è ormai questo suono che è diventato il suo suono definitivo, questo White Soul, questo soul bianco che ormai interpreta da parecchi dischi con sempre maggiore convinzione. Mi sembra, da un lato, che vengano recepiti con entusiasmo prima di tutto dal pubblico inglese, perché Paul Weller è soprattutto un artista inglese per inglesi, ma poi venga rispettato da tanti fan in giro per il mondo. Quindi la novità è l'uscita di questo disco. Se vi fosse sfuggito, Anni 10 serve proprio a questo, a dirvi che ci sono dei nuovi oggetti culturali, prodotti da seguire e magari darvene nota, in modo che possiate andarli a cercare. Tra l'altro l'album in questione segna un riavvicinamento a suo modo storico, perché i Jam si sciolsero in maniera virulenta, perché Paul Weller disse agli altri due componenti della band che non ne voleva più sapere di quel progetto, che stava diventando troppo pop, troppo commerciale, e i due altri se ne ebbero molto a male perché guadagnavano tanti soldi. Adesso finalmente con Bruce Foxton si sono rimessi d'accordo con il bassista e hanno risuonato finalmente insieme in questo disco, anche perché, racconta Paul, entrambi hanno avuto dei grandi dolori familiari ultimamente, questo li ha un po' uniti. È morto infatti il papà di Paul Weller, John Weller, il manager storico dei Jam, un personaggio straordinario che ci rimanda proprio a quei sabati sera e domenica mattina di Alan Sillito, perché lui era un figlio della classe operaia inglese che seguiva il figlio, lo aveva finanziato nei primi tentativi musicali, stava sempre dalle parti del palco quando c'era un suo concerto, era manager, padre, padrone, un po' tutto, un personaggio molto molto interessante. Si racconta, tra le altre cose, l'episodio in cui ottenne il primo anticipo per i Jam, quando andò a contrattare con una casa discografica. Il discografico gli disse 6.000 sterline per il contratto, lui disse ok, gli dette un assegno, lui disse no, niente assegni, mi dispiace, noi non abbiamo conto in banca, e pretese le banconote una sull'altra da 10 sterline fino a garantire al suo figlio la celebrità. Figure. Dammi un baciotto di auguri, potrei non tornare. Li stand a capo. Fumi completi. A noi questo trailer di Iron Man 2 ci è piaciuto assai, poi adesso vi dirò dell'accoglienza pessima al film in America, ma insomma dammi un baciotto e tu mi completi ci sono molto piaciute, ci sembra, come dire, anche un grande sforzo di adattamento ai dialoghi, il baciotto. Poi parte il trailer, poi dietro c'è il film, ma noi restiamo attaccati al trailer. Ci è piaciuto talmente tanto che siamo andati a vedere com'è in originale questo baciotto, no? E il tu mi completi? Okay, give me a smooch for good luck. I might not make it back. Go get him, boss. You complete me? Capito? Quindi You Complete Me sta per Mi Completi, e non c'è stato volo pindarico. Il baciotto, lo smooch, no? Poi il disastro, perché le recensioni che hanno accolto il film, al di là di questo trailer, che ci sembra molto molto molto divertente, e il cast formidabile, no? Scarlett Johansson, Mickey Rourke, Sam Rockwell, insomma c'è addirittura Samuel Jackson che passa a un certo punto, sono devastanti, dicono il gioco è bello quando dura poco, solo rumore e botti in questo filmaccio, insomma lo fanno a pezzi, sembra che dal punto di vista almeno della critica non ce ne sia, di fatto almeno quelle poche facce che abbiamo visto, poi il film esce e quindi lo possiamo andare a vedere al cinema e verificare, ci sembrano molto divertenti da parte di Robert Downey Jr., che resta comunque un attore sulla cresta dell'onda. Comunque un mito cade, ma come dire, un trailer resta. Good morning everybody, this is a great day in Los Angeles. They've got the money. Given a 2-week extension, officials today said they've met the Friday. Questa è una local news di Los Angeles che però ha il potere di essere universale, perché tutto ciò che succede nella città capitale mondiale del cinema, dello spettacolo, ha questa forza, no, di riguardarci un po' tutti. In fondo, chi se ne frega della scritta Hollywood lì sulla collina che sovrasta l'omonimo quartiere di Los Angeles, ma invece poi siamo tutti un po' più contenti perché l'hanno salvata, la scritta intendo. E è arrivato anche Schwarzenegger, con governatore della California, è andato lì, si è fatto montare il suo podietto e ha fatto il suo discorso, che più o meno è suonato così. Che cosa ci si aspetta da che Terminator faccia quando la città chiama? Entra in azione. Cioè, questo è un governatore, cioè si può avere la fortuna di avere un governatore che ti dice cose di questo genere? Beh, non è da poco, ti mette anche di buon umore. Di fatto la scritta stava per essere condannata per i soliti a causa dei soliti speculatori immobiliari, insomma lì ci volevano fare 4 villette al posto della scritta Hollywood. Poi sono arrivati i soldi invece per riscattare il terreno e per dare anche una bella aggiustata alla scritta, speriamo che non la rovinano, che non ci mettono i neon, magari lo sponsor da una parte, comunque vedremo. Alla fine il buono della storia, sapete chi è? È Hugh Hefner, ovvero Mr. Playboy, che ha riempito il gap, come dicono elegantemente i commentatori, i cronisti, ovvero in pratica ha messo i soldi che mancavano, nella fattispecie $900,000 che mancavano a quelli versati da banche e altri ricconi e benefattori, e alla fine è stata fatta la festa e tutti i politici hanno sfilato e la scritta di Hollywood è salva. There are things men can do to one another. Insomma, questo Pacific è attesissimo, anche i trailer che si vedono qui in Italia fanno capire che, insomma, Spielberg, Tom Hanks, ci sono nomi straordinari, questa rivisitazione della guerra sul Pacifico, la seconda guerra mondiale nel Pacifico vista dagli occhi americani dopo il soldato Ryan ne sia un po' in un certo senso un pandan, e che per intensità, per realismo, per emozioni sarà uno spettacolo da non perdere. Io vi segnalo su internet un sito che si chiama The Art of the Title Sequence, l'arte della sequenza dei titoli, dove viene ricostruito fotogramma per fotogramma, ed è uno spettacolo d'arte, non solo di televisione, la costruzione, l'ideazione dei titoli di testa del The Pacific. Dategli un'occhiata, oltre che delle citazioni, pensate, l'ispirazione viene da To Kill a Mockingbird, un pezzo di storia del cinema, anche della letteratura americana, e hanno preso l'idea da lì e hanno costruito un vero e proprio piccolo capolavoro in forma di titoli. From the farthest corner of a distant galaxy and the deepest feelings of the human soul comes a fantasy to fill your heart. I feel tremendous. I Feel Tremendous, questo era Cocoon, uno strano, strano film su un gruppo di vecchietti che si annoiavano nel loro ospizio finché dallo spazio arrivava una strana sostanza che li rendeva, come dire, molto vivaci, no? E allora tornavano i giorni d'oro, la stagione d'oro. Bene, tutto ciò ora sulla televisione americana, su un network via cavo che si chiama WE, ovvero WE, è diventato un programma, ma come definirlo? Io lo definirei un crossover, perché è un programma veramente anni 10, perché è un po' reality, ma è dopo il reality, ha anche delle parti sceneggiate, insomma è un grande mischio fra generi televisivi. Si chiama Sunset Days, che vuol dire, possiamo tradurlo, un po' lo stordimento del tramonto, no? Qualcosa del genere, lo stupore del tramonto, e riguarda una comunità di anziani, come capita spesso negli Stati Uniti, i pensionati, gente arrivata ormai alla cosiddetta terza età, vivono insieme, si creano delle vere e proprie community, sono organizzati, sono proprio dei condomini, spesso dei piccoli quartierini, in certi casi addirittura dei villaggi di gente che poi naturalmente ha gli stessi gusti, gli stessi desideri, lo stesso stile di vita. si vive insieme e in questo microcosmo si scatenano naturalmente drammaturgie di ogni genere, e a questo si è dedicato questo programma, che è stato accolto con toni quasi trionfali dai recensori del New York Times, che tra l'altro non sono di bocca buona. Raccontano che ci sono storie naturalmente passionali, ci sono storie divertenti, c'è la suora volante, insomma una che a 65 anni si è tolta il velo da suora, ha scoperto la vita, adesso si lancia con il paracadute, e appunto è diventata la storia della suora volante. Si raccontano questi fleur che continuano a spuntare a destra e a sinistra, dice: ma guarda che brutti denti ha quello lì, si chiede una signora, e poi subito dopo dice: ma saranno i suoi, no? Perché nessuno più ha i denti suoi in America a una certa età, e quindi hanno tutti i denti bellissimi. Uno che ce li ha brutti, però potrebbe avere una vera rarità. Niente dentiera, i suoi denti. Ed è parlando di dentiere che ci sembra, come dire, l'argomento giusto, no? Per chiudere la puntata di oggi di anni 10. Insomma, abbiamo parlato di fior di presidenti, ex presidenti in realtà, poi è passato Frank Sinatra, abbiamo visto Susan Boyle, Gorillaz, Weller, poi Rufus Wainwright, Pacific, che toccherà vederlo, e siamo stati rassicurati, la scritta di Hollywood sta ancora lì, almeno per un'altra settimana, fino al prossimo anni 10. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti. Il profilo Facebook si chiama Anni 10 Radio 24, oppure Anni 10, a seconda se volete informazioni o dialogo. La mail è anni10radio24.it. Ci sentiamo tra una settimana, state tutti bene.